Ronzo e Vicoli con Gigio e con Gaston, scordando senza scrupoli la chiave del portone. L'astuta Gelsomina per un po' temporeggiò, ma stanca una mattina la sua guerra dichiarò. Usa la chiave, ma che sogno, se te la butto quasi poi tutto non sono tipo da subir. Butta la chiave, non te la butto, torna dove eri, chiama i pompieri, prendi la scala per salir. Sei tuo perdo, questa sera no, mai più, mai più mi tarterò, no, no. Butta la chiave! Ma tu sei matto, devi soffrire, devi gelare, questa lezione dovrai capire. Sei tuo, perdo, questa sera avrò, mai più, mai più ritarderò, no, no. Butta la chiave, non mi tentare, se mi commuovi tu ci riprovi e più non pensi a rinunciare. Butta la chiave, niente da fare, tu mi prometti 100 pacchetti, 1000, 2000, forse 1 milione, apri il portone.